un po' le voci qua, spia che se questo è un uomo. Un computer per nemico, che tu vuoi ha già inferito. Avevi 10 anni e forse anche di meno, ma quell'orrido mostro non conosce freno. Ora lui è sazio, lo è in abbondanza, ma i tuoi pochi anni non hanno più speranza. Se questo è un uomo, io non sono mai nato. Se questo è un uomo, non lo sono mai stato. La siringa sul braccio, è domenica sera, amata libertà, un sogno che s'avvera. Libertà di morire per riempire quel vuoto che è dentro di te, un vuoto voluto da chi ha pensato che morire di nulla è un diritto dello Stato. Se questo è un uomo, io non sono mai nato. Se questo è un uomo, non lo sono. Dedicata a Ariel Sharon. Il denaro è nel tuo sangue, per gli uccidi e per gli uccidi, per le banche di profitti, venderesti anche i tuoi figli, e con l'oro e l'argento arredito inferno. Questo è il tuo razzismo, mascherato da buonismo. Invadi la mia terra, ma non vincerai la guerra. Se questo è un uomo, io non sono mai nato. Se questo è un uomo, non lo sono mai stato. Se questo è un uomo, io non sono mai nato. Se questo è un uomo, non lo sono mai stato. Tua madre e tuo padre che ti hanno creato per poi abortire insieme a questo stato.